E torniamo in onda dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Queste sempre Sono solo nuvolette, la versione itinerante, insieme a tutta Radio Archimede, che si è spostata per questi 5 giorni al Salone Internazionale del Libro al Lingotto Fiere. Ho il piacere e l'onore di avere qui con me Moreno Burattini. In una veste inedita, Moreno Burattini per tutti è curatore e sceneggiatore autore di Zagor. Sì, grazie, intanto un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ok, grazie anche a Alessandro in regia, che è stato un vero ninja in questi giorni, è implacabile. Intravediamo un luminoso futuro per questo ragazzo, perché è veramente molto molto bravo. E di Moreno, per chi ci guarda in webcam, presentiamo un libro che si intitola... Diciamolo bene, perché ieri l'hanno detto male in un'altra radio. Utili sputi di riflessione. Cioè, quindi sottolineando che sono sputi e non spunti, e che non è un refuso, insomma. Uno potrebbe dire, ma guarda, hanno fatto uno sbaglio in copertina, c'è scritto utili sputi. No, beh, no. Sarebbe problematico il refuso in copertina. Anche se giustamente tu più avanti dici refuso, in realtà si scrive resufo, ma nessuno riesce mai a scriverlo giusto. Sì, esatto. Quindi ho già anticipato, non volendo, al volo... il contenuto del libro, che sono aforismi. Sì. Dunque. Gli aforismi sono un genere, in effetti sono un genere ben preciso, che ha una ricca tradizione storica e culturale anche italiana. Mamma mia, gli aforismi sono un genere letterario che ha degli antenati illustrissimi che si perdono nella notte della letteratura, addirittura dell'intera umanità. A colpo d'occhio sono semplicemente frasi con una certa cura, frasi molto brevi, con una certa arguzia e molta cura anche nella scelta della singola parola. Sì, tanto è vero. Guarda, allora ti dirò qual è cosa dice Karl Kraus, che è uno dei più famosi autori di aforismi del mondo, era un austriaco dei primi del Novecento, che dice così: ci sono certi scrittori che riescono a esprimere già in 20 pagine cose per cui talvolta mi ci vogliono due righe. Cioè, quindi l'aforismo si intende qualcosa che in due righe riesce a sintetizzare quello che altri direbbero in 20 pagine. Certo. E, tra l'altro, poi la stessa etimologia, non vogliamo fare, come dire, dotti e sapienti, ma è interessante ricordarlo, anche perché è una cosa bella da sapere. La parola aforisma ha la stessa etimologia di orizzonte, cioè deriva dal greco orizzo, che significa circoscrivere, limitare. Quindi apo, orizzo, da cui aforisma, è qualcosa che circoscrive, che racchiude. Quindi in un piccolo spazio si racchiude magari una grande saggezza. Certo. E tra l'altro, sai qual è il primo scrittore che introduce la parola aforisma in italiano? Ebbene, il primo scrittore che dice aforisma in una opera letteraria italiana è Dante Alighieri, che nel Paradiso parla degli aforismi di Ippocrate, perché Ippocrate era un medico dell'antichità che dava delle massime per mantenere la salute, dei consigli scritti in poche parole, e questi consigli di Ippocrate si chiamavano aforismi, e quindi secondo Dante chi seguiva gli aforismi era un medico. Ecco, dare consigli in qualche modo per la salute delle persone che faceva Ippocrate, si passa a dare consigli per la salute dell'anima, dello spirito, del... Ok, quindi nascono con una funzione essenzialmente tecnica, anche esatto. La brevità per la memorizzabilità. Come i 10 comandamenti, no? Ecco, okay. L'aforismo, ecco, i 10 comandamenti sono in qualche modo 10 aforismi. Poi a un certo punto nel corso della storia ci fu un italiano molto famoso che cominciò a passare, poi dirò chi è, cominciò a passare dall'aforisma così scientifico-tecnico di ammonimento, no? Di saggezza, di sapienza, cominciò a passare all'aforisma come riflessione, come sulla vita. Osservando la natura, questo grande autore traeva delle frasi che in qualche modo commentavano quello che vedeva. Poi dirò chi è, ma intanto il suo aforisma principale, che non tutti ricordano, è quello sull'acqua dei fiumi. Secondo lui l'acqua che si tocca dei fiumi è la prima che viene e l'ultima che va, e così il tempo, cioè anche il tempo scorre come scorre un fiume. Bene, questo osservatore della natura, che poi ricavava in qualche modo una massima saggia, era Leonardo da Vinci. Quindi con Leonardo da Vinci si passa al tipo di aforisma moderno che noi conosciamo, di cui io sono l'ultimo e più modesto esponente. Quindi è un'ascendenza celebre. Un altro genio, uno dei più importanti geni italiani che si è cimentato anche con questo genere. Anche con questo genere. E, sempre Karl Kraus diceva: quando non si sa scrivere, un romanzo riesce più facile di un aforisma, perché l'aforisma richiede veramente la grande brevità, cioè quindi riuscire... Allora io posso dire qualcosa che tutti noi conosciamo benissimo, e posso ricordare quella regola di Twitter, perché... chi usa questo social, no, che è Twitter, sa che la regola principale è che si devono scrivere delle frasi non più lunghe di 140 caratteri. Bene, quando siamo all'inizio dell'uso di Twitter, riuscire a scrivere delle cose in questa brevità e farsi capire è veramente difficile. Poi si riesce a prenderci la mano e siamo brevi e essenziali. Quindi Twitter è la palestra ideale per chiunque voglia scrivere aforismi. E credo che anche Twitter è la scusa dietro cui si nasconde la nascita di questi aforismi, sbaglio? Sì, certo, perché a questo punto posso fare anche una specie di autobiografia, insomma, in qualche modo. Io sono il mio lavoro è scrivere fumetti. Scrivere fumetti ormai lo faccio da 25 anni, anzi quest'anno festeggio i miei 25 anni con il fumetto, perché il mio primo fumetto pagato, professionale, è uscito in edicola, è uscito nel settembre del 1990 su una rivista che si chiamava Mostri, della Acme. Poi nel 91 il mio primo Zagor. Ecco, da allora sono 25 anni che scrivo fumetti, in particolare occupandomi di Zagor, anche se poi ho scritto Catti, Lupo Alberto, il Comandante Mark, addirittura un Tex e Dampir, però diciamo che Zagor è il personaggio principale. Bene, per questo mio tipo di lavoro, pensando di in qualche modo così rivolgermi ai miei lettori, ho cominciato 3 o 4 anni fa a twittare. Però a twittare mi ha preso la mano, perché anziché parlare dei miei fumetti ho cominciato a parlare di tutto e scusate la parolaccia, a scrivere cavolate, anzi si potrebbe dire qualcosa di peggio ma non la dico, alternando però quindi frasi anche sul mal di vivere, sulla ricerca di Dio, sull'amore, ma anche poi tante cose buffe, tante battute, tante barzellette. Bene, diresti che è il mezzo stesso di Twitter che ti ha influenzato nel cercare l'estrema sintesi? Ma sì, esattamente, certo, ho cercato di concentrarmi tutto, anche se devo dire che io di mio sono sempre stato un appassionato del genere. Quando andavo al liceo mi ricordo che avevo un quadernetto dove mi segnavo, scrivendo proprio con la penna, non le aforismi che venivano in mente a me, perché non me ne veniva, ma quando sono un libro trovavo una frase che ritenevo bella, sapiente, spiritosa, giusta, me la copiavo e ho riempito interi quaderni di questi aforismi altrui, citando poi la fonte. Quindi ero già, come dire, appassionato, no, di questo, certo, mezzo di espressione. Arrivando su Twitter, dovendo scrivere le cose in 140 caratteri, mi sono venute spontanee. Uno degli aforismi miei, del resto un buon proposito, è questo: sarò breve. Ecco. Quindi più breve di così non l'avevo capito, era talmente intelligente che mi ero distratto. Sarò breve. Perché sei fermato? No, perché il funziona devi, molto bene se devi essere breve, sì, breve, no, cosa devi fare? Funziona molto bene. E quindi scrivendo queste cavolate giorno dopo giorno ne ho scritte talmente tante che alla fine mi sono accorto mio malgrado di avere un pubblico che tutti i giorni ci andava a cercarsele. Anzi, quando io scrivevo qualcosa che riguarda Zagor, facevano che palle, parlo sempre di Zagor, no. E quindi cominciavo invece a scrivere di tutt'altro, insomma. Hai scoperto una tua seconda vita autoriale. Esattamente. Allora alla fine hanno cominciato a chiedere: ma perché non le pubblichi, perché non gli raccogli? E pensavo: ma che sarà mai l'editore così pazzo che si mette ad... Anzi, addirittura pensavo: beh, un giorno farò un libro di quelli, sai, autoprodotti, no? Così che uno si fa da solo pagando, e gli regalerò 100 copie agli amici. E invece poi ho trovato l'editore pazzo che mi ha raccolto davvero oltre 2000 aforismi in un librone, proprio una specie di enciclopedia di aforismi, perché sono divisi, che tra l'altro è anche diviso per argomento. Esattamente, sì. È proprio argomenti, cioè ogni argomento naturalmente si riduce a 5, 6, 7 aforismi, sì, molto brevi, quindi sono tanti argomenti, alla fine è proprio un'enciclopedia. Tant'è vero che stamattina abbiamo fatto una presentazione al Salone del Libro davanti a un pubblico. Io mi sono divertito a chiedere alla gente del pubblico di dire un argomento, no? Che ha detto i libri, che ha detto che so, le tette, non lo so, la scuola, quello che è. C'è. Sei sempre riuscito a rispondere. Sì, abbiamo trovato l'abbigliamento, i vestiti, il cibo, no? La dieta. Abbiamo trovato esattamente sempre l'aforisma giusto, che fra l'altro sono stati letti con una voce stentorea dal nostro prefattore del libro, che è un personaggio illustre, perché il professor Giuseppe Noto è un insegnante universitario di Torino, un filologo romanzo, si occupa di letteratura medievale, e il quale si è prestato primo a scrivere l'introduzione, che da sola vale il pezzo del libro, ricostruendo appunto la dignità letteraria di questo genere, no? E poi si è prestato in maniera molto divertente e divertita a leggerli lui, quindi ho avuto un professore universitario che, a comando del pubblico che suggeriva l'argomento, se ne andava a cercare la singola voce e leggeva, suscitando, devo dire, una certa ilarità. Quindi, un jukebox di aforismi. Sì, a questo punto proprio da... Dovresti fare degli spettacli a partire da questo libro. Ho già cominciato, ho cominciato a pensarci. Questo è il primo, bene, sì, bene. Ma e il titolo? Utili sputi di riflessione? Utili sputi di riflessione è uno degli aforismi che ho scritto, perché giustamente si gioca sulle parole, no? Per cui cioè lo spunto di riflessione è lo spunto, lo sputo è qualcosa che io ti dico in faccia, no? In qualche modo te lo butto in faccia lì e te prendi, vedi un po' se ti scansi, se e lo poi becchi, salta insomma. Una lettera, ti rifori un concetto completamente opposto e smitizzante completamente. Assolutamente, per esempio, è anche un po' un lavorare sulle parole, sì, sì. Cioè, le non parole so, per abusate esempio, puoi dire quando si fa l'amore si fa con impeto, viva la foga. Giustamente, vedi, basta cambiare una vocale e ottieni un concetto che magari sta anche in piedi, no? Ma è anche un modo un po' per smitizzare certe tematiche, che certe parole che sono un po' troppo sull'altare, e poi in realtà le si porta a livello terreno giocandoci intorno. Sì, beh, il gioco, allora diceva Isaac Asimov che il gioco di parole è la forma più nobile di umorismo. Perché? Perché mentre l'umorismo che si fa raccontando la barzelletta sconcia, vabbè, è alla portata di tutti, no? Se fai il gioco di parole, devi pensare che il lettore capisce l'allusione, coglie quello che ti vuoi riferire. Quindi sembra semplice giocare le parole, ma non è così, e serve sempre una certa cultura. Presuppone da una parte e dall'altra un codice comune, sì, che è il linguaggio. Esempio, ci sono anche degli aforismi che ho scritto io che non tutti riescono a capire. Ne dico uno che è incomprensibile e lo spiego, però spiego come si può giocare con le parole anche in questo modo qua. Se io dico, come dice un aforisma, la domanda stupida, ma Milan Kundera era 1-0, allora uno può capire un a zero come abitante dell'Azerbaigian, e la risposta è no, era un cecoslovacco, uno di Praga, insomma. Però se invece la capisci come Milan, squadra di calcio, che gioca con un'ipotetica squadra Kundera, e il risultato è 1-0, ecco che l'aforisma diventa abbastanza colto e difficile da cogliere. Non sono tutti così, però questo è così. Probabilmente lì la difficoltà è che hai abbinato alto e basso, effettivamente, sì. Uno scrittore ma è giusto, patrimonio di una certa classe intellettuale, e dall'altra parte il calcio, okay. Che invece... Come dico poi nell'introduzione, perfino Dante diceva parolacce nella Divina Commedia e non si imbarazzava nemmeno un po', diceva culo, fra virgolette, e puttana, citate più volte della Divina Commedia, senza farsi il minimo scrupolo. Quindi esiste anche un registro grottesco, scurrile, che è usato apposta per ottenere un certo effetto stilistico. Quindi anche la volgarità, anche perché le parole sono le parole, quasi sempre il contesto la differenza. Sì, certo. Ma per esempio, ora dirò una aforisma in cui c'è una parolaccia. Questa parolaccia penso sia divertente, però perché uno usa questa parolaccia e non usa una parola un po' più sofisticata? Perché il concetto lo richiede. Per esempio, qualunque cosa tu stia facendo, il resto del mondo tromba. Se ti metti qualunque altra parola al posto di quel tromba, non riesci a rendere lo stesso effetto. E guarda che è vero. Sì, perché c'è la sintesi. È un discorso di sintesi, di onomatopea della parola. Esatto. Se fosse il resto del mondo sta fornicando. Sì, per ma carità. Fornicando poi dai un'accezione negativa, no, si sta divertendo in realtà. Esatto. Però esatto. Si deve dire così, no? Non esiste, non puoi usare un'altra parola. Quindi, poi non è che tutte queste mie aforismi sono così scurrili, insomma, ci sono anche quelli che sono... Sfogliando seri. Ieri ho colto anche parecchi elementi, adesso avrei dovuto essere una persona dirigente, quindi annotarmele, invece non l'ho fatto, però molti passaggi che hanno dietro l'ironia di superficie c'è anche una certa profondità, c'è una bella mente vivace e oserei dire molto... vivacemente democratica, ma nel senso che della comprensione prima della contrapposizione. Sì, è sicuramente una mente laica, però è anche una mente, c'è anche una ricerca dietro, una ricerca che va anche cercando, non so, Dio o la verità su quello che c'è dopo la morte, non lo so, cioè le verità ultime, verità che non ho trovato, quindi pongo dei dubbi e non pongo soluzioni. Però nella mia introduzione ho fatto una cosa spiritosa, ho cercato di giustificare questo libro agli occhi della mia mamma, perché la mia mamma pensa che io sia un ragazzo per bene, quindi quando troverà degli aforismi dedicati, non so, al culo, per esempio... Non guardo più Miss Italia in TV da quando hanno vietato di inquadrare il lato B delle concorrenti. Non c'è più gusto, che cosa devi vedere, no? Quindi come fa la mia mamma che mi ha sempre educato nel migliore dei modi, insomma, a capire che io ho detto il resto del mondo tromba? Sono preoccupato il giorno in cui gli darò questo libro, una settimana vado a trovarla, glielo porterò, e allora la mia prefazione è: scusa mamma, cerco di spiegarti che però tutti questi aforismi sono una ricerca della verità, per cui quando parlo... Ma se la farà una bella risata, dai. Sì, ma sono sicuro, insomma, essendo mamma spirituale, mi ha fatto me, quindi. Per esempio, lei che è molto religiosa dovrà sentire questo aforismo mio sulla fede, che dice: io non sono ateo, sono difficile da convincere. È chiaro che c'è dietro una ricerca, in qualche modo, no? di una verità. E tra l'altro, mi permette di, mi pare che sia uno degli aforismi a cui è abbinato un'illustrazione. Sì, mi permette, esatto, di dire anche un'altra cosa. Sì. Parecchie, vi sono ben... sono 28 autori. 28 disegnatori ti hanno fatto omaggio di un disegno. Ma loro leggevano prima l'aforisma? Sì, e... No, no, io dunque, innanzitutto va detto che io, essendo autore di fumetti con esperienza pluridecennale, ho tanti amici che lavorano nel mondo del fumetto, quindi a una trentina di questi ho chiesto: mi fate un disegno, me lo regalate per il libro degli aforismi? E mi hanno regalato non dei disegni, dei capolavori, perché se guardi sono dei disegni straordinari, disegnati da 8 grandi disegnatori di fumetti italiani. Si va da Silvia Zica e Alessandro Bocce, passando per Roberto Diso, l'autore di Mister No, insomma, Stefano Babini, ma non vorrei citare alcuni, poi non citandone tanti altri. E questi miei amici mi hanno regalato 28 disegni meravigliosi, nei quali hanno illustrato il loro preferito. Io naturalmente ho mandato loro prima in lettura l'elenco degli aforismi, okay, una selezione, insomma, di qualche centinaio, e ciascuno ha scelto quale voleva, quale preferiva. E tra l'altro, per esempio, a volte Cupido colpisce uno solo, a volte due che non possono, illustrato sia da Roberto Diso che da Nicola Genzianella. Hanno scelto tutti e due questa cosa qui. Perché evidentemente aveva anche qualcosa, sì, che risuonava. Sì, è l'unico caso di un doppione. Insomma, un altro divertente è quello che ha illustrato Fabiano Ambu, perché se lo vai a cercare nella sezione a colori, perché c'è anche una sezione, è qua, l'ha trovato sfogliando, chi ci vede, guarda qua, è questo, okay, potresti leggerlo. Una volta Hulk e la Cosa hanno fatto una sfida a braccio di ferro. E chi ha vinto? Braccio di ferro. A volte sono proprio delle battute, no? Delle barzellette, tipo, non so, che vengono spontanee. Tipo, non so, cosa non dicono due alpinisti che vogliono andare a scalare le Ande? Andiamo. Giustamente. Sì. Oppure, giustamente, non so, quest'altra. Una volta l'attrice Angelica Houston, con fare molto preoccupato, disse... Al fidanzato: Houston, abbiamo un problema. Era rimasta incinta, insomma. Okay. E quindi così sono barzellette singolari. Anche questa. Alcune, sì, gli, sì, uomini che si tingono i capelli non sono abbastanza grati al destino che non glieli ha fatti perdere. Già che non li ha persi, te li tinge. Non te li tingere, vai, tenteli così come sono. Sì, insomma, a volte sono anche, sì, riflessioni sulla vita, l'universo e tutto quanto, come direbbe, sì, sì, Douglas Adams. Sì. E poi, non so, per esempio, riflessioni sulla felicità. Siamo tutti felici con le vite degli altri, perché poi in realtà nessuno sa cosa alberga nel cuore delle persone ci stanno accanto. Ci sembrano tutti felici, no? E poi invece. Sì. Questo è un effetto anche un po' di Facebook, che tende, sì, a suscitare l'invidia per qualcosa che in realtà non succede. Quindi... Sì. Oppure uno sul coso, ecco, alla voce coso, non vi sto a spiegare che cos'è il coso, però adesso lo capirete. C'è un aforisma che dice: il fallo si chiama così perché quando uno è indeciso se commettere o no un atto impuro, quella parte del corpo suggerisce fallo. Quindi si passa proprio dalle stelle alle stalle. Tanto è vero che un altro aforisma prende spunto da una cosa vera che mi è successo, cioè di una persona che, seguendomi su Twitter, ha detto: ah, io adoro Moreno Burattini perché passa dallo scrivere cose serie alle stupidaggini più pazzesche. E io ho risposto: io veramente pensavo di scrivere sempre cose serie. Beh, non c'è male. Se ne trovi qualcun altro che ti piace. Beh, questa è abbastanza centrata sempre sul coso. Sì. L'andrologo è l'unico autorizzato a interessarsi dei cazzi degli altri. Eh beh, certo. Sì. Pure a volte ci si indaga sull'aldilà, no? Su cosa c'è dall'altra parte. E tutti cercano di dirci, cioè, tanti sono convinti di saperlo, per cui dice: ah, guarda, quando moriremo troveremo questo, troveremo quest'altro. E la mia obiezione è: prima di spiegarmi come è fatto l'aldilà, spiegami come fai a saperlo. Perché se mi dice mi fa saperlo, forse ci chiede, no, è un po' più clamoroso. Insomma, alla fine sono stati 200. Ha trovato qualcos'altro? Sì, beh, 2000, scusa, 200 pagine e 2000 aforismi. E infatti, sì, nell'aldilà ci daremo tutti del fu. Certo. Vedo che è la stessa pagina dove ci sono spalle degli alieni. Sì. Allora, un altro aforismo è questo: gli alieni che viaggiano per milioni di anni luce e vengono da noi a fare i cerchi nel grano non possono essere che degli imbecilli. È un modo per vederla, giustamente. Sì. Giustamente. Hai già avuto qualche primo riscontro di questo libro? Qualcuno che ti dice, ah, fantastico, perché... Cioè, un primo riscontro posso dirtelo io, che ieri ho fatto il viaggio con un mio amico, rientrando ha sfogliato il libro e mi ha detto, compramene uno anche a me. Quindi... Allora, il libro è appena uscito, perché il Salone del Libro di Torino è in qualche modo una straordinaria vetrina che permette, certo, di metterlo fuori prima ancora che esca altrove, proprio per cui sei stato fortunato che sei riuscito a averlo, come sono stati fortunati quelli che l'hanno preso oggi, ma da qui in poi cominceremo con questa grande, comincerò a fare tante presentazioni in giro per l'Italia, cominciando da sabato e domenica prossima saremo, perché si parla di una grande manifestazione di fumetti ad Albissola, Albissola Marina, cioè Albissola Comics, dove verrà presentato di nuovo questo Utili Sputi e dove ci sarà anche una mostra che metterà in esposizione tutti i 30 disegni che illustrano il libro. La domenica successiva sarò invece a Narni e poi via via andremo avanti da tante parti a presentarlo, ma la cosa singolare, appunto, non è che voglio essere io a farmi lodarmi da solo che strada si imbroda, però diciamo che appena il libro è arrivato, prima ancora che fosse portato al salone, mi è arrivata una scatola con questi libri e li ho distribuiti nella mia redazione dalla Bonelli, una trentina di copie ai miei colleghi. Mi hanno detto che il lavoro si è interrotto e che in tutte le stanze c'era qualcuno che sghignazzava. Una collega in particolare mi ha detto, cioè, guarda, io non so, ieri sera sono tornata in metropolitana, leggevo il libro in metropolitana e tutti mi guardavano perché ridevo, però soprattutto quelli sul matrimonio sono giustissimi, perché evidentemente anche lei ha qualche problema con il matrimonio. Ma poi tocchi anche argomenti molto seri che sì, troppo spesso su cui si semplifica, invece qui è una semplificazione salutare, come... sulla dittatura, sì, le piazze prima si riempiono per esaltare i dittatori e poi per vederli appesi a testa in giù. Sì, sì, vabbè, sai, come diceva Machiavelli, il popolo è volubile. Volubile, sì, infatti. Sul matrimonio si diceva, no? Giustamente si chiamano unioni civili, quelle fra gente non sposate, perché il matrimonio è una unione incivile. Giustamente, giustamente. Poi ci sono i giochi di parole, per esempio. Ma il cubo di Rubik si può definire Rubik alla terza? Giustamente. Oppure sui mariti. Le donne hanno due possibilità, o mettersi con uno che è già sposato, o sposarsi uno con cui si metteranno le altre. Oppure a volte sì, sulla mafia. Ma il mafioso che va dal barbiere e vuole un taglio della barba modellato sul mento, chiede il pizzo. Vabbè. Oppure invece si parte invece dalla parte malinconica e seria, sul mal di vivere. Ci sono giorni in cui capisci perché le balene si spiaggiano. Tutte le volte siamo, no? Così dice, è vero, sì. E poi alcune denotano anche una certa cultura. Non mi chiedo che razza di gatto avesse Schrödinger, ma quanti? Quanti va scritto maiuscolo? Bisogna sapere, per esempio, che il gatto di Schrödinger è la base della teoria dei quanti. Dei quanti, però... certo. Oppure ci sono... Andrebbe bene per Big Bang Theory questa, visto che sono... Sì, assolutamente. Sono tutti fisici. Oppure qualcuno sui nomi, perché sono veramente tante le voci, no? Proprio una specie di enciclopedia dove uno può trovare l'argomento che vuole. Nomi. Chiamare una donna Chiara è incongruente come chiamare un uomo fedele, perché in effetti non ci sono donne chiare né uomini fedeli. Okay. Ma se chiami tua figlia selvaggia, poi puoi pretendere che tenga in ordine la stanza? No, non so. Direi di no. La difficoltà è quello in cui a te invece è riuscito molto bene, è non prenderle sul serio, nel senso... E in ogni aforisma c'è l'ironia, ma non c'è la pretesa di giudicare nei tuoi. Questo è fondamentale, è chiaro. Cioè, nel mio caso almeno. Poi l'aforisma in qualche modo è comunque una provocazione, anche quando c'è l'aforisma che in qualche modo, come dire, esprime un parere, è talmente espresso in una forma che in qualche modo deve colpire, no? Perché l'aforisma non può essere oggi una bella giornata, è una frase breve ma non vuol dire niente, devi trovare il modo di dire questa cosa in modo però che colpisca in qualche modo l'ascoltatore. Quindi se in qualche modo l'aforisma deve cogliere nel segno, colpire al cuore, farsi notare, deve essere una provocazione. Se è una provocazione, anche la verità diventa uno stimolo alla discussione, perché provocare vuol dire suscitare un dibattito. Se ti dicessi che infatti questi sono aforismi, non slogan, siamo un po' ai due opposti, a parità di sintesi, sì, lo slogan pretende di dare delle risposte, esatto, l'aforismo pone delle domande. C'è una, se vai a vedere, c'è la voce slogan, ti invito a andartela a cercare. Che come canta Daniele Silvestri, lo slogan è fascista per natura. Certo, e quindi se guardi il primo degli aforismi che si chiamano slogan, vedi che cosa, come cominci, va proprio cercato nell'ordine alfabetico. E ti trovi slogan, il primo? No agli slogan. No agli slogan, che è una... Oppure... È un po' come, mi hai fatto pensare anche a quel decalogo di Umberto Eco della scrittura. La maggior parte degli scrittori esordienti non lo capisce perché lo credono delle regole, quando in realtà lui fa delle piccole frasi in cui dà una regola e la smonta. Uno di questi è questo. C'è bisogno delle domande retoriche? Te lo chiedo, ma il fatto di chiederlo è una domanda retorica. Esatto. No? Questo decalogo di Eco è fantastico perché crea una regola nell'atto di formulare la regola, la smentisce. Sì, esatto. Pure un altro aforismo è questo, perché è sempre degli slogan, che dice così: si può disfare. Come si può fare? Si può disfare. Giustamente. Allora, per dare ancora qualche coordinata spazio-temporale di questo libro, è pubblicato da Alla Galla Edizioni, che è questa casa editrice di Torino. Abbiamo anche possiamo anche dire il prezzo di copertina, che sì, è 10 euro. È poco, quindi non ci si vergogna di dire che costa 10 euro. Sono 200 pagine circa di battute e di segni. Credo che alla galla ha un sito ufficiale www.allagalla.it, se per caso faticaste a trovarlo in fumetteria o in libreria. Sì, comunque adesso tra una decina di giorni sarà disponibile anche su Amazon, si può già richiedere in vari siti che fanno le rivendite online. Ma insomma, io a questo punto vi invito anche chi volesse, che fosse al mare in quei giorni, a passare da Albissola Marina domenica prossima, e vi giuro che se venite con il libro in mano vi faccio una dedica con un aforisma personalizzato, come l'ho fatto a te. Esatto. Ieri, visto che io mi chiamo Gatti di cognome Fulvio De Cat, infatti è il nick da Facebook, a Fulvio Gatti, che è in linea perfetta, perché come tutti sanno non c'è trippa per gatti. Vedi? Quindi chi viene col libro si becca l'aforisma dedicato. Meglio di così. L'aforisma sul momento a tema. Quindi guarda, direi che abbiamo esaurito il tempo, ma anche esaurito perfettamente l'argomento di discussione, quindi siamo stati aforistici anche nella Perfetto. Discussione. Abbiamo chiuso e abbiamo circoscritto l'argomento, esatto. No? Come vuole la definizione. Brevi e concisi, visto che da quando un comico ha fatto la gag breve e circonciso, oramai la gente non riesce più, la gente di un basso livello culturale non conosce più il senso esatto della parola. È come, dire, siamo tutti adulteri e vaccinati. No? Esatto. Esatto, e se qualcuno facesse una battuta del genere a Zelig, probabilmente si perderebbe, comincerebbero a usare anche la parola adulteri per dire adulti. Il linguaggio ha qualche problema, quindi è bello giocarci, è molto importante giocarci e ricordarci di accendere il cervello anche quando lo si utilizza, perché d'altra parte all'interno nell'uso delle parole c'è un mondo. Nelle parole che si scelgono, lo vediamo anche nella politica, in tante situazioni, per cui la scelta delle parole può fare davvero la differenza. Assolutamente. Grazie tantissimo a Moreno Burattini per essere stato qui con noi a Sono Solo Nuvolette. Bene, grazie a tutti della pazienza e dell'ascolto. Vuoi dare il tuo account Twitter? Perché penso che prosegua la produzione. Sì, ne ho scritto uno anche stamattina. Vuoi sapere quello di stamattina? Sì, quello di stamattina, allora. Voglio saperlo. Se io fossi come vuoi, non sarei come voglio. Ok, e qui siamo già anche, c'è un bel gioco di parole, ma c'è anche un certo contenuto di... Esatto. No, su Twitter sono @ Moreno Zagor, comunque Moreno Burattini si trova facilmente. Perfetto, grazie ancora Moreno. Arrivederci, grazie.